il libro di Abacuc. Oracolo che ricevette in visione il profeta Abacuc. Fino a quando, Signore, invocherò soccorso e tu non darai ascolto? Griderò a te violenza e tu non mi salverai? Perché costringermi a veder l'iniquità e a dover guardare l'oppressione? Rapina e violenza stanno davanti a me. C'è rissa e la discordia prevale. La legge di certo si affievolisce e scompare per sempre la giustizia, perché l'empio domina il giusto, la giustizia si perverte. Guardate tra le genti, osservate, guardate stupefatti, allibite, perché io compirò un evento ai vostri giorni che non lo credereste se lo si raccontasse. Ecco, io susciterò i Caldei, razza feroce e fulminea, che corre su vasti territori della terra per impossessarsi delle case degli altri. È feroce e terribile genia, si fa da sé il diritto e la legge. Corrono più delle pantere i suoi cavalli, sono più impetuosi dei lupi a sera. I suoi cavalieri scattano, i suoi cavalieri arrivano da lontano, volano come aquila che piomba sulla preda. Vengono tutti per predare. La loro bocca soffia come il vento dell'est, raccoglie come sabbia i prigionieri. Egli si fa beffe dei re e i principi sono oggetto di scherno per lui. Si ride di tutte le fortezze, costruisce terrapieni e le conquista. Poi il vento passa e se ne va. Empio chi fa della propria forza il suo Dio. Non sei tu il Signore dai tempi remoti, mio Dio, mio Santo, immortale? Signore, tu l'hai destinato a fare il giudizio. Mia roccia, tu l'hai voluto per punire. Son troppo puri i tuoi occhi, non possono vedere il male. Tu non puoi stare a vedere l'oppressione. Perché dunque te ne stai a guardare i perfidi, fai silenzio mentre l'empio sopraffà il giusto? Tratti gli uomini come i pesci del mare, come rettili che non hanno un padrone. Chiunque li può prender tutti con l'amo, tirarli su con la lenza. Li raccoglie nella rete, poi gioisce e si rallegra. Per questo fa sacrifici alla sua lenza e offre l'incenso alla sua rete, perché con essi si arricchisce e fa i pasti più abbondanti. Vuoterà dunque la sua rete senza sosta, massacrando i popoli senza pietà? Io mi metto al mio posto di guardia, sto in piedi sopra la mia roccia e sto attento per sentir che mi dirà, che risponderà al mio lamento. Il Signore mi ha risposto e ha detto: scrivi la visione, incidila su tavolette, perché si corra a leggerla. Perché la visione riguarda una data, essa attende una fine, non inganna. Se tarda a venire, aspettala, perché verrà certamente, non indugerà. Ecco, soccombe chi non ha l'animo retto, il giusto invece sopravvive per la sua fedeltà. La ricchezza è veramente traditrice. Il forte insuperbisce e non ha pace. Allarga la sua anima come lo Sheol, è insaziabile come la morte. Ammassa intorno a sé tutte le nazioni e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Tutti costoro non ripeteranno forse una satira, motti enigmatici contro di lui? Essi diranno: guai a chi ammassa quello degli altri e si carica d'un fardello di pegni. Non sorgeranno forse all'improvviso i tuoi creditori, non si sveglieranno forse i tuoi esattori? Allora diventerai la loro preda. Perché tu hai depredato molti popoli, tutti gli altri popoli ti deprederanno. Per aver versato sangue umano, fatto violenza al paese, alla città e a tutti i suoi abitanti. Guai a chi rapina a pro della sua casa per mettere molto in alto il suo nido, per difendersi dai colpi della sventura. Tu hai disonorato la tua casa, hai distrutto tanti popoli, hai nociuto a te stesso, perché le pietre dei muri si lamentano e le travi degli assiti ti rimproverano. Guai a chi costruisce una città sul sangue, una città sopra il delitto. È forse volere del Signore degli eserciti che le nazioni si affannino per il fuoco, le genti si affatichino per niente? Certo, la terra sarà ripiena della scienza della gloria del Signore, come le acque riempiono il mare. Guai a chi fa bere ai suoi vicini, versa il veleno fino a stordirli, per scoprire la loro nudità. Ti sazi di ignominia e non di gloria, bevi a tua volta e fatti venir le vertigini. Passa per te la coppa della destra del Signore, e l'ignominia ricopre la tua gloria. Sì, la violenza fatta al Libano ti ricadrà sopra, e la strage degli animali ti atterrirà. Perché hai versato sangue umano, fatto violenza al paese, alla città e a tutti i suoi abitanti. Guai a chi dice al legno «svegliati» e alla pietra inerte «sorgi dal tuo silenzio». Questo è l'oracolo. Ecco, l'involucro è d'oro e d'argento, ma dentro non c'è soffio di vita. A che serve che uno scultore lisci la statua, un'immagine, un oracolo bugiardo, perché il suo artista nutra speranza di farsi degli idoli muti? Il Signore è nel suo santo tempio, silenzio davanti a Lui, terra tutta quanta. Preghiera del profeta Abacuc sul tono delle lamentazioni. Signore, ho udito parlare di te. Ti temo, Signore, per l'opera tua. In questo tempo rinnovala, in questo tempo falla conoscere. Nell'ira ricordati della misericordia. Dio viene da Teman, il santo dai monti di Paran. La sua maestà ricopre il cielo, la sua gloria riempie la terra, il suo splendore è simile alla luce, i raggi spuntano dalla sua mano, dov'è racchiusa la sua forza. Davanti a lui avanza la peste, la febbre incede davanti ai suoi passi, si alza e fa tremare la terra, guarda e fa gemere le genti. Allora sobbalzano i monti eterni, si fondono le colline antiche, i loro sentieri eterni. Ho visto le tende di Cusan mosse per lo spavento, tremar le pelli del paese di Madian. Forse divampa contro i fiumi, Signore, la tua ira, o contro il mare è il tuo furore, tu che cavalchi sopra i tuoi destrieri, sopra i tuoi carri vittoriosi. Tu snudi il tuo braccio, sazi le frecce della tua faretra. Tu scavi torrenti nel suolo, ti vedono e traballano le montagne. Passa il fortunale, l'abisso fa udir la sua voce. La luce splendente del sole si oscura, la luna rimane nella sua dimora. Scompaiono allo scintillar delle tue frecce, al bagliore dell'asta della tua lancia. Con rabbia tu penetri nel suolo, con ira tu spaventi le genti. Tu esci a salvare il tuo popolo, a salvare il tuo unto. Hai diroccato la casa dell'empio, squarciato i fondamenti fino alla roccia. Hai trafitto con le tue aste la sua testa, mentre i suoi guerrieri incalzavano per disperderci con la loro ferocia, per divorare il povero nelle loro tane. Tu hai lanciato nel mare i tuoi cavalli, nel ribollimento delle acque profonde. Ho udito ed ha palpitato il mio petto. A questa notizia trepidano le mie labbra. Entra un tarlo nelle mie ossa e sotto di me vacillano i miei passi. aspetto tranquillo il giorno dell'angoscia che si leva contro il popolo assalitore. Sì, il fico non fiorisce più e non c'è più frutto nelle viti. Ha negato il suo frutto l'olivo e il campo non dà più da mangiare. È scomparso dal serraglio il bestiame e non c'è l'armento nelle stalle. Io invece mi rallegrerò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Dio, mio Signore, è la mia forza. Farà i miei piedi più veloci di quelli dei cervi e mi condurrà sopra le alture.